i popoli sono fratelli, i popoli sono le madri, i bambini, i figli, il popolo è il gigante. Putin, fermati e non andare avanti. Nel 1979 io svenne a cantare ai popoli sovietici, in tutta la Russia, in tutta la Unione Sovietica, che poi si divisero, ma non i popoli. I popoli non restarono divisi. I popoli sono fratelli, sorelle, bambini. I popoli si conquistano con l'amore, l'amore universale. Fermati, te lo dico quanta storia. Franco Trincare, quello che tu anche hai ascoltato quando venne in Russia, il sottoscritto quando venne da... Fermati Putin, fermati, fermati. C'è un uomo nel mondo che è morto ieri sera, è morto di fame, è morto in miniera, lo uccide il lavoro, uccide il digiuno, son già troppi morti senza la guerra, son già troppi morti su tutta la terra. Non so le medaglie, non so le mitraglie, non so le canaglie che fanno gli eroi. La guerra è un delitto, la guerra è cretina, è un atto incosciente, una grande rapina. C'è un uomo nel mondo che muore domani, deve essere salvato, deve essere vivo. Non deve morire di fame o di guerra, c'è un uomo nel mondo che è già condannato, deve essere salvato dovunque si trovi, è un essere sacro, è un essere umano, niente più guerra su tutta la terra. Non so le distanze che danno la pace, c'è un uomo che muore, puoi essere tu. Rispondi a pernacchie, rispondi a risate, non fare la guerra, sei tu quel che muore. Non so le medaglie, non so le mitraglie, non so le canaglie che fanno gli eroi. La guerra è un delitto, la guerra è cretina, è un atto incosciente, è una grande rapina.